Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori, questa sera giochiamo un po' in casa perché abbiamo con noi Valentina Furlanetto. Buonasera Valentina. Buonasera a te e agli ascoltatori. Valentina Furlanetto è giornalista di Radio 24, l'avete forse sentita spesso su queste onde e magari su questo sito internet, e ha scritto un libro, L'industria della carità, da storie e testimonianze inedite, il volto nascosto della beneficenza, un libro edito da Chiare Lettere. Ecco, un libro che è già avuto un notevole successo, è arrivata la seconda edizione, è un libro inchiesta. Come è nata l'idea di fare questo libro? Allora, l'idea è nata perché, come tu sai, perché sei stato direttore di Radio 24 e sei l'artefice, insomma, un pochino delle mie poche conoscenze in questo campo, per qualche anno, per una decina d'anni a Radio 24 mi sono occupata di terzo settore, lo sai perché anche tu, insomma, mi hai dato questa possibilità. E anche gli altri direttori di Radio 24 che si sono succeduti, ho condotto alcune trasmissioni senza fine di lucro, era la prima quando era nata la radio, che io ho preso il testimone da una collega, e devo dire, quando ho preso il testimone da Valentina Melis ero una novella di questi temi, non li conoscevo, l'ho preso con molto entusiasmo ma senza conoscerli, e quindi anche nell'introduzione del libro lo scrivo proprio come percorso personale, quello di insomma aver iniziato a occuparmi di temi sociali del terzo settore con molto entusiasmo acritico, con un pregiudizio probabilmente positivo, e come tutti i pregiudizi probabilmente era sbagliato, nel senso che poi bisogna avere un occhio un po' distaccato. Certo, perché come in tutti i settori c'è del bene ma c'è anche un qualcosa che non funziona, quindi tu hai puntato l'occhio sia su quello che si fa di bene ma cercando di mettere in rilievo anche le cose che sono, diciamo, non tanto in linea con le organizzazioni che vorrebbero essere appunto di solidarietà, di carità, di partecipazione. Sì, le opacità, insomma, le cose che non vanno, sia le inchieste che ci sono state negli anni che proprio le contraddizioni interne a questo settore, che appunto per 10 anni ho raccontato in maniera positiva, illuminando i progetti nei quali credo, perché credo che sia un settore importantissimo e che quindi anche questo libro non vuole assolutamente intaccare o screditare, ma proprio cercando di distinguere fra realtà diverse, perché come in tutti i settori esiste un po' di tutto, esistono associazioni che pubblicano i bilanci, esistono associazioni che non lo fanno, i bilanci a volte sono chiari ed esaustivi, a volte invece sono un po' opachi, e questa è già una cosa che il donatore deve tenere presente. Certo. Quando si approccia a un'associazione per donare, non ci sono solo i bilanci, ci sono stati in questi anni anche molti incontri con le persone che si occupano di volontariato, di ONG o di ONLUS, insomma le realtà sono una diversa dall'altra, ci tengo a sottolinearlo perché chi se ne occupa giustamente vuole che siamo precisi in questo, e quindi questi incontri mi hanno portato a conoscere persone che avevano delle testimonianze entusiaste molto belle da raccontare, e persone invece che in maniera un po' critica hanno cercato di rompere un pochino quell'unione, insomma, giusta, ma che a volte diventa anche corporativa, delle persone che ne fanno parte, per raccontarmi anche alcune cose che non andavano, quindi sono diventate delle testimonianze del libro. Ecco, quindi c'è una realtà molto vasta, molto positiva, di organizzazioni che si occupano di carità e di solidarietà, ma talvolta queste organizzazioni, soprattutto quando forse crescono, quando diventano delle organizzazioni che si devono dare anche delle strutture professionali, ecco, magari la ricerca di fondi occupa, come in molti casi tu illustri, occupa e costa quasi tutto quello che poi viene ricavato, quindi quello che viene ricavato va in molta parte alla stessa struttura e in piccola parte, in parte molto minore invece ai fini appunto di beneficenza e di assistenza. Ecco, sono molti questi casi, e quali sono i casi più significativi? Facciamo anche dei nomi. Allora, sì, non c'è nessun problema, l'ho fatti nel libro, quindi si arrabbieranno, si sono già arrabbiati, non si arrabbieranno di più di quello che è, perché i numeri sono quelli. Sì, in effetti è come dici, da quando l'artigianato diventa industria, cioè si ingrandisce anche come dimensioni, come ammontare di fondi che vengono gestiti, chiaramente si devono dare una struttura, e questo è legittimo, si devono fare pubblicità, e anche questo è legittimo, poi bisogna vedere quanto quella struttura e la pubblicità mangiano dell'intera fetta, e quindi si pongono dei problemi che non sottolineo solo io, ma ci sono fior di studiosi, tra cui anche a Davos in gennaio se ne è parlato, dicendo che queste ONG a un certo punto, quelle molto grandi e strutturate, rischiano di diventare delle grandi burocrazie, no? Un po' quello che si additava all'ONU, no? Come, certo, carrozzone le Nazioni Unite unite come carrozzone, anche capace di fare del bene, ma capace anche di mangiare con le sue affitti, macchine, jeep, questo e quell'altro, e anche gli stipendi, nel caso certo. dell'ONU, una larga fetta di quello che arriva poi ai donatori. Nomi, sì, beh, ce ne sono molti, per dire anche l'UNICEF, che è un'agenzia dell'ONU, ha visto raddoppiati i fondi che vanno alla pubblicità in 10 anni, non sono raddoppiati invece i fondi che vanno ai progetti. Anche per cambiare invece totalmente settore, Greenpeace dà attualmente 2 milioni e 300 mila circa ai progetti e poco di più alla pubblicità, il che fa un po' impressione. Io per pubblicità intendo pubblicità, non illuminare le campagne di Greenpeace, che è un'altra cosa, insomma, quella è parte della mission di Greenpeace, ma ce ne sono anche altre, molte altre. Poi bisogna sempre distinguere, no? Certo. Quindi andare a vedere nei fatti non solo a che percentuale va la pubblicità alla struttura, ma anche quanto si riesce a fare in effetti, cioè se c'è un'efficacia, perché inseguendo le aziende profit nel ingrandirsi, nel dare spazio alla pubblicità, bisogna inseguirle anche nell'efficacia, ecco, dei progetti. In un certo senso quello che dici è che in fondo la solidarietà funziona meglio a chilometro zero, cioè sulle cose più vicine, che non per le cose sì. più lontane. Poi non vorrei fare la lode dei piccoli, perché anche i piccoli hanno, ci sono nelle piccole ONLUS o ONG delle problematicità legate magari al dilettantismo talvolta. Però sì, ecco, io sottolineavo il fatto che insomma bisognerebbe un po' più dedicarsi alla carità a chilometro zero, ovviamente è una formula così un po' provocatoria, perché alle volte, soprattutto nel caso dei testimonial, delle star, serve magari fare pubblicità o fare il testimonial per una grande associazione un po' come una riga sul curriculum, invece non vediamo spesso queste star andare all'associazione sotto casa che si occupa dei poveri del quartiere. Ecco, comunque possiamo dire, avviandoci un po' alla conclusione, che il panorama che ne esce è un panorama sicuramente di grande attivismo, di grande passione, con alcuni punti deboli che è giusto mettere in rilievo, perché possono essere risolti, perché comunque sono una realtà queste organizzazioni, senza appunto generalizzare, perché poi ognuna può avere i propri difetti e ognuna può avere anche i propri meriti, perché di meriti ce ne sono molti, sono una realtà comunque importante nella situazione italiana e in una situazione anche di difficoltà economica in cui ci troviamo. Questo richiamo alla solidarietà è qualcosa che comunque resta fondamentale. Sì, sì, certo. Io alla fine concludo dicendo che se si chiude il libro e si pensa che sia tutto da buttare, ecco, o io non mi sono spiegata bene, oppure chi legge non capisce quello che io volevo dare, e quello che volevo dare era una scossa a stare sempre più attenti a queste cose, anche dal punto di vista dell'opinione pubblica, che di solito tende un pochino a omologare tutte queste realtà, mentre sono una diversa dall'altra. Sì, la crisi intaccherà sicuramente le donazioni, non credo che questo libro farà del male, come a volte mi viene chiesto, a chi vuole donare, insomma diminuirà la spinta, ma magari spero si accenderà nelle persone una lucina in più nell'essere un po' più critici. Nel fare anche più attenzione, appunto nel sollecitare appunto queste organizzazioni a essere più trasparenti, più efficaci, esatto. a mettere a frutto meglio quanto anche ricevono appunto dalla solidarietà delle persone. Grazie Valentina Furlanetto, abbiamo parlato del tuo libro L'industria della carità, da storie e testimonianze inedite, il voto nascosto della beneficenza, edito da Chiare Lettere, 272 pagine per €13,90. E insieme a questo libro, per concludere questo programma, vi parlo brevemente di un altro libro sempre sul tema delle organizzazioni di solidarietà, di carità. Si tratta dell'Impegno, scritto da Giuseppe Rusconi, un giornalista per Rubettino, come la Chiesa italiana accompagna la società nella vita di ogni giorno. Ed è questa di Rusconi un'analisi molto accurata, sicuramente un po' di parte, guardando con molta attenzione, però facendo proprio un esame analitico di tutti gli asili, di tutte le strutture, di tutte le organizzazioni sociali che offrono appunto assistenza e che integrano quello che viene fatto dalla società appunto nel suo insieme. Quindi un ruolo delle organizzazioni della Chiesa in campo sociale, un ruolo delle organizzazioni, la tesi appunto di Rusconi è quella che queste organizzazioni in fondo fanno risparmiare alla la società, fanno risparmiare, perché se non ci fosse l'impegno di queste organizzazioni, l'impegno appunto solidaristico a tutti i livelli, assistenziale, sanitario, educativo, ecco, lo Stato dovrebbe spendere molto di più, e quindi anche sotto questo profilo queste organizzazioni costituiscono una realtà positiva per la crescita sociale, per la crescita appunto all'interno della società italiana. Vi ricordo appunto l'impegno di Giuseppe Rusconi, edito da Rubettino, sono 144 pagine per 18 euro. Grazie a Valentina Fullanetto, grazie a Fabio Cantadori in regia, Luca Cremonese in redazione. Questo programma, le altre puntate di Economia in Pagina possono essere riascoltati dal sito www.radio24.it. Grazie e buona serata.